Storie italiane. È proprio vero. Non molto tempo fa, una gallina raccontò la storia più terribile di tutti i tempi. Una storia da far rizzare le penne a tutte le altre galline. Era stata una giornata lunga e faticosa. Tutte le galline erano pronte a dormire nei loro accoglienti letti di fieno e tra loro c'era la gallina dalle piume bianche. La gallina grigia stava osservando tutto questo, chiedendosi come mai una gallina potesse fare una cosa del genere, perché per lei una gallina che si staccava le piume era una cosa davvero spaventosa. Fiu! Sono felice di essermi liberata di quella piuma sporca. Non essendo in grado di mantenere questo pettegolezzo per se stessa, volò fuori dal suo letto per raccontare alle sue amiche quanto visto. Ciao Lisa! Ehi Pixie! Avvicinatevi, ho dei pettegolezzi! Avete sentito parlare di questa sciocca gallina? Si sta togliendo tutte le piume per sembrare più bella? Come può una gallina senza piume piacere ad un gallo? Se io fossi un gallo, disprezzerei una gallina così! Oh, è orribile! Come ha potuto? Che vergogna! Cosa è diventato questo mondo, santo pollo? Dimmi che non è vero! Su una quercia vicino al pollaio viveva una famiglia di gufi. Mamma Gufo aveva delle orecchie incredibili che potevano sentire tutto e anche una grande bocca per rivelare tutto. Tutto ciò di cui le galline avevano parlato. Arrivando a casa, mamma Gufo rivelò immediatamente ciò che aveva udito. Era una storia terrificante per i piccoli gufi. Erano divertiti e inorriditi. Ma per lo più inorriditi. All'idea di un uccello che si strappa le piume pensando di apparire più bello. Ma mamma, come farà a volare? Le galline non volano davvero come noi, mia cara. Ma senza le penne sentirebbero freddo e si ammalerebbero. Dici di più, mamma. C'è di più da sapere? Oh, no, è troppo tardi adesso. Andate a letto voi tre. Dormite bene, miei angeli. Più tardi, dopo aver baciato i giovani gufi che si addormentavano, mamma Gufo volò a raccontare la storia ai suoi amici piccioni. Devo dire ai piccioni di questa gallina pazza? So che non ci crederanno, ma devo. Mamma Gufo raccontò tutto della gallina ai piccioni e loro ascoltarono attentamente tutto. Non chiusero le palpebre, non fecero domande. Semplicemente ascoltarono e credettero a tutto ciò che mamma Gufo disse loro. Deve aver davvero freddo adesso che è senza piume. Era una novità anche per i piccioni. Dal momento che amavano così tanto condividere le storie, volarono in tutte le direzioni per raccontare anche questa storia scandalosa. Sai che è proprio vero? Le galline nel pollaio si stanno togliendo tutte le piume perché credono di sembrare più belle! Sai, è proprio vero! Le galline nel pollaio si stanno staccando tutte le piume per attirare l'attenzione del gallo! Sapete che è proprio vero? Le galline nel pollaio si stanno staccando tutte le loro penne per attirare l'attenzione del gallo. Quella piccola piuma si era trasformata in molte piume e quell'unica gallina si era trasformata in molte galline. La mattina seguente, questa notizia scioccante aveva raggiunto le orecchie del gallo. Che? C'è qualcosa che devo dirti? Potresti non crederci davvero, ma è proprio tutto vero! Tre galline si sono strappate le penne, ne parla tutta la gente! Ho sentito che erano innamorate del gallo, che in effetti è proprio bello! Che succederà durante l'inverno? Senza piume sentiranno un freddo d'inferno! E le voci delle galline che si spiumavano erano ovunque. La storia viaggiava da pollaio a pollaio, da fattoria a fattoria e infine giunse fino al paese. E infine la notizia tornò al pollaio dal quale era partita. C'erano tre galline tristi che avevano il cuore spezzato per via di un gallo. Per conquistare il suo cuore, iniziarono a strapparsi le piume per mostrare chi lo amava di più. E questo continuò finché non persero tutte le loro piume. Puoi non crederci, ma è tutto vero! Quando la gallina bianca, che aveva perso una piccola piuma, finalmente sentì questa storia, non riuscì a capire da dove provenisse. Era triste e sconvolta e disse: «Cosa sta succedendo? Questo è inaccettabile! Le galline non devono strapparsi le piume. Io l'ho fatto una volta perché si era sporcata. Questa storia non deve essere tenuta segreta. Dobbiamo diffondere la consapevolezza. Dobbiamo trasmetterla alla televisione della fattoria». La notizia era finita. La notizia era stata vista al giornale e alla televisione. La notizia è molto preoccupante. Non sapevo che avessimo un canale di notizie per il nostro pollaio. Certo che lo abbiamo. Come puoi non sapere una cosa del genere? Scusa, non lo sapevo. Si chiama TG24. Cos'è il TG24? Ah, TG24 è Telegallina 24. È molto popolare. Proprio così. La storia era apparsa sul giornale del mattino. Tutti avevano letto questa storia di tre sciocche galline che avevano il cuore spezzato per un gallo locale e che si erano strappate tutte le piume. Ora stavano morendo di freddo. Le penne le avrebbero protette, ma invece senza di esse si erano ammalate tutte terribilmente. Nella prima pagina del giornale della fattoria, il titolo recitava: «Tre galline innamorate sacrificano tutte le loro penne». «È tutta colpa mia! Non avrei dovuto diffondere una bugia! D'ora in poi non racconterò mai più niente se non la verità! Ho imparato una lezione importante oggi!» Si dice: una bugia conquista metà del mondo prima che la verità indossi gli stivali. La gallina grigia aveva imparato una lezione preziosa. Quindi dobbiamo ricordare che quando raccontiamo delle storie dobbiamo fare attenzione a cosa stiamo dicendo. Una parola sparsa qua e là è in grado di creare qualcosa che potremmo non essere più in grado di fermare o modificare. Proprio come una piuma si è trasformata in molte piume e una gallina si è trasformata in tre galline, la storia può essere falsa, ma come dice la gallina, è tutto proprio vero.